Qual è secondo lei lo stato del design italiano in questo momento? Guarda, mettiamola così, è un bicchiere pieno a metà e si può guardare come mezzo pieno o mezzo vuoto. Però io sono sempre un ottimista, sono un immancabilmente ottimista in ogni situazione. Anzi, guarda, la mia vita è cambiata quando veramente un amico fisico mi ha detto: Fabio, il bicchiere è pieno a metà. Non è né pieno né, non è mezzo pieno mezzo vuoto, è tutto pieno, perché per metà è acqua, metà è aria. E allora io veramente voglio comunicare questo tipo di visione positiva. Cioè, ci si potrebbe lamentare del nostro paese, di quello che sta esprimendo, ma contemporaneamente si potrebbero anche vedere dei grandi segnali di cambiamento. Ecco, io voglio concentrarmi su quei segnali lì. Voglio credere che ci sia in nuce, il seme, se vuoi, il bozzolo di un grande cambiamento che è alle porte. A proposito di cambiamento, come è cambiato il design italiano negli ultimi decenni? Ma guarda, ne parlavo prima, cioè dalle sperimentazioni di Memphis dell'81, se pensiamo che sono passati 30 anni, è cambiato moltissimo. In questo senso l'Italia è diventata molto un paese molto più conservatore. Forse è quella libertà lì a cui dobbiamo di nuovo aspirare, no? È quella libertà lì che deve essere di nuovo la bandiera da sventolare. Ecco, io appartengo a quella schiera di sognatori che pensa che veramente lo spirito del design italiano sia sempre innovatore e di grande rottura. Noi non siamo, perlomeno, guarda, io non mi sento assolutamente un conservatore, e non accetto neanche chi dice che rivoluzionari si nasce e conservatori si muore. Cioè, io voglio essere rivoluzionario tutta la vita. Ma il design italiano nel mondo è ancora apprezzato? Guarda, diciamo che viviamo di rendita, ecco, mettiamola così, noi viviamo molto di rendita, però, come voglio dire, siamo al sole 24 ore, qui si sa che le rendite non durano tutta la vita, cioè questa rendita qui dobbiamo cercare di farla fruttare, perché lasciata lì a un certo punto si esaurirà. Anche questo primato del Salone del Mobile, che è sicuramente l'evento più importante di quelli, no, delle mostre di design nel mondo, ma se lo diamo per scontato sempre, se in qualche maniera non lo curiamo e non ce ne occupiamo, questo primato qui sfumerà. Quindi veramente non esistono rendite di posizione in nessun campo, quindi non curiamoci sugli allori.